possere alla ragione il rigor d'una alma forte, il rigor d'una alma forte. E dov'è? Serve alla ragione il rigor d'un'alma forte, il rigor d'un'alma forte. E dov'è? Non crudeltà, non crudeltà.